Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Covid-19 bambini, uno studio dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con il Karolinska Institute di Stoccolma fa luce sui meccanismi dell'infiammazione associata al virus per identificare strategie di diagnosi precoce e trattamenti mirati. A Obiettivo Salute in linea con noi il professor Paolo Palma, responsabile di immunologia clinica e vaccinologia del Bambino Gesù di Roma e dello studio. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Professore, il vostro studio si riferisce ad una piccola quota di bambini che, ammalati di Covid-19, possono sviluppare una grave forma di infiammazione sistemica. Assolutamente sì, lo studio identifica quelli che sono i meccanismi alla base dell'infiammazione in questa piccola quota di bambini che successivamente all'infezione acuta da SARS-CoV-2 sviluppa un quadro molto infiammatorio sistemico piuttosto grave che necessita anche di trattamenti piuttosto invasivi con aiuto di rianimazione. In questo studio siamo stati in grado di identificare quelle che sono caratteristiche immunologiche e anche i meccanismi patogenetici che portano a un quadro infiammatorio molto grave e che si differenzia sia dall'adulto che fa un quadro infiammatorio e che va in rianimazione sempre con l'infezione da SARS-CoV-2 che da la malattia di Kawasaki, come era stato precedentemente pensato ed erano state identificate come malattie simili, in realtà si identificano come condizioni diverse. Professor Palma, quest'anno la vaccinazione anti-influenzale viene fortemente raccomandata anche per i bambini. Assolutamente sì, quest'anno più degli anni passati risulta necessario cercare di limitare il più possibile quelli che sono gli accessi al pronto soccorso per motivi futili, anche per garantire un servizio sempre più adeguato per i pazienti che hanno problemi maggiori. Quindi è importante la vaccinazione antinfluenzale nei pazienti a rischio, e per pazienti a rischio si intendono non solo quei bambini che hanno patologie croniche, quindi che sono in terapia con immunomodulanti, steroidi, ma anche quella quota di bambini che ha un'asma cronica o che ha infezioni ricorrenti, e quindi è molto importante cercare di limitare le sindrome influenzali e di conseguenza permettere una diagnosi più accurata e un trattamento più accurato per i pazienti che veramente necessitano un accesso in pronto soccorso. Grazie, e come sempre vi segnalo che sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute sono partite le nostre video interviste. Oggi parliamo del potere antistress del respiro. Mike Maric ci racconta il suo metodo per abbandonare definitivamente ansia, tensione e stanchezza, ma anche per allenarci senza stress. A tra poco, vi aspetto, buona giornata. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.